Mi piace questo progetto da un'altra radio di Roma. Si dice così, dice così, dice così. Ragazzi, siamo partiti. Ragazzi, siamo partiti. Tidi, tidi. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. In Artra, Radio Roma. Che emozione. Che emozione. Sono qui pronto per lanciare nuovi pezzi. Pronto per darvi un altro po' di roba. Pronto per darvi un altro po' di roba. Pronto per darvi un altro po' di roba. Perché noi non siamo de pelastica. In Artra, Radio Roma. Hola, hola, hola, hola, hola, ci siamo ragazzi e siamo tornati qui per l'ennesima puntata di Nartra Radio Roma, ma vogliamo subito avvisare tutti quanti che la colpa del ritardo non è stata di Mr. Cocot e Mr. Brontolo, ma di Mr. Campo. Perché Mr. Campo c'entra sempre in qualunque situazione si trovi, in qualunque posto lui si trovi, al lavoro, a casa, con la famiglia, con i genitori, con gli amici, è sempre colpa sua. Perché sicuramente si sarà tenuto un microfono a casa, si sarà tenuto la corrente, avrà spento la corrente del palazzo. Comunque volevo ringraziare tutta Nartra Radio Roma e il suo staff per queste puntate che stiamo facendo ogni lunedì, e ringraziamo Fuso Radio che ci ospita ogni venerdì dalle 6 alle 7 e mezza. E noi ci ospitiamo a casa nostra dalle 9 fino alle 11. Oggi è qui con voi Mr. Cogot e Mr. Brontolo. Siamo partiti subito con un pezzo che forse avrete riconosciuto, che non è tanto Creative Commons, ma è una cover di Jefferson Airplane, che a quel momento già pensavano alle Creative Commons, perché loro sotto LSD già pensavano: qui la SIAE ci ha rotto i coglioni. Comunque, loro erano i The Fifth Project, direttamente dal Canada, con la traccia White Rabbit, che chi la conosce era una cover di Jefferson Airplane. Come avrete capito, stasera si parlerà di psichedelia, ragazzi, solo musica Creative Commons, e sarà solo psichedelia, perciò incominciatevi a prendervi i vostri trip, i vostri LSD, che si parte. E adesso vi passo Mr. Brontolo, perché sennò penserete qua c'è solo Mr. Cogot, che vi dirà, si è portato appresso, ragazzi, vi dico ragazzi, si è portato 25 pagine in cui vi illustreremo la storia della psichedelia da 1960 fino al 2012. Preparatevi, per voi Mr. Brontolo. Un consueto buon momento a tutti e qua voi Mr. Brontolicchio, per voi, sì, con lieve ritardo, ci scusiamo per questo, ci scusiamo con i colleghi di Fuso Radio, e comunque sempre colpa di Kempo. Sì, è vero, vi ho portato una settantina di pagine, ma in realtà lo scaricate tutte quante da internet, perché ormai io in questo mondo vivo, questo mondo di internet, che vado a scovare appunto le notiziole. Invece il nostro carissimo Mr. Cocot ha sfoggiato i suoi 12 libri. I 12 libri che pago in lire. Qualcuno l'ha pagato anche in sesterzi, sono molto antichi, considerando che la musica psichedelica ovviamente nasce negli anni 60 e ha una durata molto breve, anche se ancora gruppi affrontano questo tema. Appunto, la musica psichedelica, che vuol dire musica dell'anima, da psiche, e delia, chiaro, evidente, rivelazione. Dove nasce ve lo diciamo dopo. Ma intanto lanciamo un altro pezzetto, che dice lei? Lo lanciamo da Free Music Archive direttamente. Aspetti che lo trovo. E questo gruppetto fa musica che può molto ricordare la musica blues come ispirazione, ma ha tonalità di musica psichedelica. Sentite un po' che robetta. Yeah. Eccoci, eccoci, eccoci di ritorno dal nessun commercial break, perché ricordiamo che Nartra Radio Roma non ha nessun commercial. Abbiamo molti break nel cervello, ma noi non abbiamo la pubblicità. Comunque vi voglio ricordare che questa puntata che abbiamo iniziato oggi con Mr. Brontolo è una nuova puntata che andrà in onda quando sapremo, il lunedì, e andremo ad effettuare una ricerca non tanto storiologica per fare i professori di raccontare i generi musicali, ma porteremo un genere che a noi ci piace, tipo oggi la musica psichedelica, e vi fonderemo le orecchie con la musica psichedelica oggi, fino a sbomballarvi i maroni, perché voi conoscete che la musica psichedelica a volte è ripetitiva, anche se lascia basiti e putrefatti, perché ovviamente va presa sotto sostanze stupefacenti la musica psichedelica, perché si entra in contatto direttamente con l'artista. Per noi la musica è già una droga e già ci stiamo drogando. Buona droga a tutti di musica psichedelica. Perciò stupitevi, ragazzi, perché qua stasera sarà come tutte le sere, musica a svanvera. Adesso andremo a cercare una bella traccia che chissà come avrò messo, sicuramente sarà in qualche posto nascosto in questo grandissimo posto. Comunque, questa traccia che vi manderò adesso è di una etichetta sotto Creative Commons che si chiama Black Square Net Label, direttamente dalla Grecia. Comunque, lui è Cameron Steel, Black Square Net Label, direttamente dalla Grecia. Questo è l'album che è appena uscito ieri, si chiama Orpheus. Vi ricordo Orfeo chi è, poi ve lo dico. E questa traccia si chiama Artemis. Thank you. are you blind? He said, I hit you, didn't I? And when I was ugly, I was a kid, I didn't ever got any girls either. The girl told me, come on over, there's nobody home. Home. I went over, there was nobody. Un pezzo bello bello interessante, un pezzo che proprio veramente mi lascia perplesso, e anche perché soprattutto lei è riuscita a trovare un pezzo che ieri è uscito, semplicemente ieri. Come? Black Square Net Label è una etichetta greca che ha a che fare ovviamente con la parola psichedelica, e non a caso la traccia si intitola Morfeo, che lei mi stava spiegando. Morfeo conosciamo tutti, invece Orfeo mi stava spiegando a quale divinità, cioè come nasce questa divinità e che cosa ci racconta. Io le lancerei il microfono e vorrei da lei che ci facesse una sintesi su Orfeo. E dopodiché, se mi prepara questa traccia, perché io vorrei replicare per lei, perché lei ha passato un pezzo che di ieri, e io invece vorrei passare un pezzo scaricato direttamente da Free Music Archive del 1972 e quindi tornare indietro nel tempo. Comunque intanto le passo il microfono, eh? Io sono contento di questa nostra battaglia psicadelica, perché appunto questa è una battaglia psicadelica tra Mr. Cocot e Mr. Brontolo a suon di scudisciate psicadeliche, solo Creative Commons. Comunque, ritornando all'artista di prima, che io non ho detto l'artista, perché ho detto soltanto la traccia, lui è Cameron Steele, non si sa da dove viene, non si sa da dove arriva, ma su Black Square Net Label ha fatto questo album che è uscito proprio ieri, scaricabile sul sito, si chiama Orpheus, dove ci sono una quantità di tracce, una quindicina, dodicina, tredicina, una undicina. E comunque Orfeo, chi non lo sa, è colui, è il più famoso poeta e musicista mai esistito nella mitologia greca. Vi dirò adesso in poche parole, in un'ora e mezza, la storia di Orfeo ed Euridice. Perché? Chi lo dice? Allora, diciamo subito che questo è lui, Orfeo, è nativo della Tracia. Secondo la mitologia classica, Orfeo prese parte alla spedizione degli Argonauti quando la nave Argo passò accanto all'isola delle Sirene. I marinai furono irritati dal loro canto, ma Orfeo li salvò intonando un canto ancora più melodioso che ruppe l'incantesimo. Ma la sua fama è legata soprattutto alla tragica vicenda d'amore con Ovidio unito alla ninfa Euridice, uno dei tanti figli di Apollo, Aristeo amava perdutatamente Euridice. Ma Euridice fu morsa da un serpente, morì e andò giù nell'inferno. Allora Orfeo che cosa fece? Fece biscotti Orfeo. Orfeo scese giù fino all'inferno, contro tutto e contro tutti, con la sua lira, il suo mandolino e le sue poesie. Scese giù fino all'inferno, arrivò da Euridice e il diavolo gli disse: adesso io te la ridò, anche se è morta. Ma quando fai le scale e tu vai davanti a lei, non ti girare a guardarla, solo quando sei uscito. Ma proprio all'ultimo scalino, cosa fece Orfeo? Si girò verso Euridice. E che cosa dice? Dice, prossima traccia, che adesso Mr. Brontolo ve la passerà. E comunque ragazzi, se volete sapere come finì, quando Orfeo si girò, dovete aspettare la prossima traccia. Loro sono Art Boys Collection e questa è One Freedom Voice of My Soul. È vero Mr. Brontolo? Ripetila se vuoi. No, non ho nulla da ripetere, vorrei semplicemente aggiungere che questo gruppo viene dritto dall'Austria, dalla Grecia all'Austria. E in austriaco psicadelia si dice mia. Freedom, freedom, freedom, ditemi se questi non assomigliano a Jefferson Airplane. E adesso continueremo così, solo musica Creative Commons qui a Nartra Radio Roma. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e quelli che non ci ascoltano e che ci ascolteranno in futuro, forse, perché questa puntata andrà in replica su Radio DJ. Comunque ragazzi, qui continuiamo sempre con la musica psicadelica sotto Creative Commons. anche attraverso storie, racconti, aneddoti di gente che ha vissuto in quei posti nel 1960. In California, San Francisco, ricordiamo Grateful Dead. You don't listen? Mr. Brontolo, lei non sente niente là sulla cuffia? E comunque, no, la cuffia è la radio? Esce il segnale, allora io spingo il play su questo e lei sta di nuovo. E diciamo a tutti ragazzi che stasera, anche se c'è Fiorello in TV, noi siamo molto, molto, molto, molto meglio. E stiamo molto, molto, molto più avanti. Comunque, bando alle ciance ragazzi, vi passo Mr. Brontolo perché vi racconterà qualche aneddoto. Lui che è stato a San Francisco in quei periodi, tra i 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ricordiamo che la musica psichedelia nasce. Psichedelia, chi è psichedelia? Psico, dal greco. E no, se lei ci vuole raccontare qualcosa, qualche aneddoto di quei concerti così lunghi, così estenuanti, sotto LSD, sotto marijuana, sotto droghe, che appunto viaggiavano. Beh, ovviamente abbiamo sotto gli occhi di tutti quanti le immagini dei Doors, perché i Doors anche sono gruppo psichedelico, perché i Doors si ispirano alla musica indiana e quindi al peyote, e loro hanno peyotato anni e anni e anni, e quindi questo è ovviamente un tipo di rock psichedelico, perché poi la psichedelia si differisce secondo i generi, ma ovviamente non si differisce solo per questo, perché ci sono alcuni artisti che utilizzano invece le sonorità, che si aiutano con le sonorità per inviare questo loro messaggio, e altri invece hanno degli approcci strumentali per inviare questo loro messaggio, il messaggio appunto di elevare lo spirito alla musica e quindi al musicista, e il musicista a chi è che fruisce della propria musica. Ma noi non volevamo assolutamente fare i professori, e lei vuole professorare oppure vuole lanciare una sua traccetta che si sta preparando con le sue manine, perché io sto aspettando una botta da lei di quelle allucinanti, perché il tempo corre e i pezzi debbono andare e rimangono nella storia della radio, perché i nostri pezzi, musica psichedelica, esclusivamente Creative Commons copyleft, cioè comunque musica svincolata da SIAE, come ormai ovviamente voi tutti conoscete. Io le passo la banda, la ciancia e la matassa, e aspetto la presentazione del suo gruppo. Ecco. Arriva direttamente ragazzi, questo pischelletto c'ha 15 anni. A 15 anni, ve lo ripeto ragazzi, suona la chitarra, e l'ho trovato su SoundCloud. Lui si chiama Johnny Antepian e viene dal Canada, e su SoundCloud lo potrete trovare con il nome di John Nye, con due N, due A, una Y, una J e una O. Questa è Heavy Turquoise, che turquoise significa turchese, e sono pezzi che vanno e a noi ci piacciono tanto. Lui è John Nye. Thank you. Va bene, e che posso dire? Intanto, se lei per favore mi carica questa traccia, me la prepara, certo. Io in qualche modo la potrei anche presentare. A questo punto io sì, parlo per ore e ore e ore, lei fa il DJ e io passo semplicemente le mie tracce, intanto ne ho un'infinità. Molto bene, il microfono neanche glielo do più, me lo tengo io, vabbè dai. Perché finalmente, finalmente, le cose che succedono sempre a Mr. Brontolo nella diretta, che se ne esce come questa traccia non me l'avete caricata, questa non la trovo, in questo istante noi abbiamo solo le tracce di Mr. Brontolo, il nostro psicadelico Mr. Brontolo. E ne sono contento, e ne sono contento, e vi spaccherei i maroni. Comunque la traccia precedente, ci tengo a precisare che non era la mia, era sempre la sua, una delle pochissime tracce che lei ha trovato. Vabbè, io passerei un pezzo di McIdol, eh? Lei che ne pensa? Io lo annuncio, lo Ios del Sol Nascente, Getting Out of Here. Che fa, ma la sparamo? Sparamola, va. going, but I'm gonna show you good. Pezzo finisce così all'incirca. Questo qua lo potrete trovare su Mac Idol e ovviamente lo potete scaricare, lo potete diffondere come meglio ritenete opportuno. A noi quello che preme oggi è parlarvi appunto della musica psichedelica. E che altro vi possiamo dire della musica psichedelica? Che ovviamente questo qua è un movimento che ha segnato gli anni 60 e la musica che c'è stata in divenire. Molti artisti si sono convertiti, ovviamente, se prima erano pro droga, dopo sono diventati contro la droga, ma quello che a noi ci preme è la musica, perché della droga non ce ne fotte nulla, perché cioè noi non utilizziamo questo metodo e quindi noi utilizziamo solo la musica. A noi il messaggio che la musica ci racconta, che lo riteniamo fondamentale noi qui a Nartra Radio Roma. E stiamo rubando ascoltatori a Fiorello. Questo lo voglio dire perché i nostri dati ufficiali ci stanno dicendo che Fiorello, che ha invitato Benigni perché era in crisi questi giorni e perché sapeva che Nartra Radio Roma trasmetteva in diretta di lunedì, e quindi noi come abbiamo risposto con la nostra musica psichedelica. Lei ha pronta un'altra traccia, Mr. Cogot? Allora, io sono pronto con un'altra traccia. Vi voglio avvertire che appunto faremo una vertenza alla RAI per questo, perché non si intralcia una trasmissione che già da tanto si conosce qui. Cioè Nartra Radio Roma è nata prima degli eventi di Fiorello, delle trasmissioni di Fiorello, sì o no? Sì. Sì, mi risulta proprio così. Perciò Nartra Radio Roma partirà con un'avvertenza dopo questa puntata, un altro genere, puntata numero uno, Mr. Brontolo, Mr. Cogot. E adesso vi faccio ascoltare ancora il Cameron Steel di prima, con l'album prima di questo che ha fatto uscire ieri. L'album si chiama Vintage e questa è Stony Road. Per voi Cameron Steel a Nartra Radio Roma. Thank you. Pure questa traccetta se n'è andata, anche questa. Mi trovo qui da solo perché il mio colleguccio si è allontanato, ma io non mi abbatto, io continuo qui con un altro pezzettino scaricato direttamente da Mac Idol, e loro sono, attenzione, non mi smuova tutta quanta la manovra. Loro sono... non ci riesco. Maledetto me. Loro sono Cabell. E questo pezzo si intitola A Crying Man. Questa traccia è del 2006. No. Sempre io, sempre il vostro Mr. Bruntolo qui per voi, ma vi ripasso Mr. Cocot, che eccolo qui, sempre pronto anch'esso, con il suo libricino in mano, che racconta a volte non racconta, e tiene per sé. Mamma. Comunque, adesso racconta. Adesso racconto qualcosa e poi un pezzo. Ma la rivoluzione psichedelica non si ferma alla musica. Grafici fantasiosi come Wes Wilson, Stanley Mouse, Alton Kelly e soprattutto Rick Griffin accompagnano la nuova onda musicale con splendidi, coloratissimi poster che aprono una nuova strada all'illustrazione rock. Immagini distorte e contorte, esotici lettering, variopinte fantasie che coniugano l'iconografia del vecchio West con la moderna fantascienza. La nuova musica per la mente viene ripiegata con toni ebri dai manifesti del Fillmore e del Winterland, prima ancora che qualcuno salga sul palco. E ora qui, sul palco The Nart Radio Roma, un altro pezzo dall'album Orpheus. Ce lo sentiamo tutti. È una mitologia psichedelica greca. It's slow. Questo pezzo è sempre dello stesso artista e si intitola Apollo, quella dopo. Sunrise, talking out that conceptualization of perpetual motion. That was our long-winded irony in the form of a metaphor. I can also do pretty but short, like what is there to want, if not more? Less, I guess. This is the product of thought, confusion, working to survive. Too stupid or afraid to ask why. Well, if it don't make sense, then it must be a lie, right? Once you conceive a story inside your mind, what's the difference between whether or not it actually happened? Did it actually happen? Was I actually there? What is the frame rate for life? How many times can you split a second in time in half? Are you worried about the future, or are you worried if exists to present and past? Am I right or dull, first or last? I carry my sanity in a flask to splash my face with something cold in case I lose my mask. I think I speak for myself when I say I think I speak for myself. I think I speak for myself when I say what does a train of thought run on? I think who built the tracks? I think I speak for myself when I say I think I speak for myself. I think I speak for myself when I say that I think I speak for myself. I think I'm more or less a schizophrenic. I've got a lot of internal conflicts inside. Like what makes a man? What defines us? Memories, a soul, where I was a second ago. Who's to know if this point in time is who I am? And damn, that guy's been dead for a minute and I feel a bit like scam. Dying and being reborn every second with a new life. Who's to say that nothing's changed? I'm the same. I already know what death's like. It's what it was before I was. What do I stand for? I mean, what defines me? I mean, what is my definition? I mean, what does it mean to be? Lady Gaga. Non è però quella psichedelia ebbre visionaria a navigare meglio il tempo quanto l'acid rock nella sua versione base. Il garage più ficcante con piccoli disturbi di frequenza, Lenny Kay lo recupera dagli archivi già nel 1972 con l'antologia di Nuggets, che fa conoscere a una nuova generazione i piccoli roghi che smaniavano nella provincia americana dietro l'ombra enorme delle rockstar, Blues Magus, Chocolate Watch Band, Count 5, Shadow of Night, mescolando visionari e teppisti, artigiani hippie e progenitori dei cattivi punk. Quella compilazione fa epoca e genera negli anni successivi tutta una serie di raccolte simili, antologie di polverosi 45 giri dai margini del mondo discografico. Tutto ciò è fantastico, tutto ciò mi commuove. Intanto io vi passo un altro pezzo, The Paparazzi. Lei me la trovo? Perché questo pezzetto va a completare le sue parole, Epic Proportions, dall'album Rococo. Now E così siamo arrivati ad un'ora di trasmissione, un'ora e dieci di trasmissione. Io posso dirvi che ho trovato le tracce che volevo metterci. Infatti, la psichedelia è con noi, ragazzi. Solo Creative Commons su un'altra Radio Roma. Adesso per voi, Mod Hippie. Questa è All of the Time. Acid LCD Folk. Che dire in questa serata pazzesca, che ci possiamo permettere il lusso, noi e solo noi, di mandare musica psichedelica per due ore. Ma non musica psichedelica normale, musica psichedelica che artisti liberi da schemi mentali sono riusciti a produrre. Ecco, secondo me è molto ben rappresentato da Marvel Scheme, Dan Budgie, sempre su Free Music Archive. benvenuti qui a Nartra Radio Roma con Mr. Bruntolo e Mr. Cocot, Nartro Genere parte 1. Una sta finendo, ragazzi. Perciò andiamo subito con l'altro pezzo che mi stavo già preparando da molti anni, molto grande e molto forte. Non vi voglio leggere una cosa di un libro questa volta, ma vi voglio mettere una traccia che un po' mi ricorda tanto quel caro Donovan, che ho tanti vinili che ho comprato, che faceva quel folk psychedelic acid folks LSD psychedelic. Loro sono i Mood Hippie e questa è la traccia The Special Prize qui a Nartra Radio Roma. The Special Prize Keepers Mood Hippie a Nartra Radio Roma. Roma. A Sonnet for 135, a special price, a million eyes. It's Lennon of a watch that smiles, a special price, it's nice and bright, the time. This is a hyped up secondary hovel. Where ours is but to dream or die. A Friday night for 95, a special price, your life and time design is price, your life and time design is fine. five a special price, a million eyes. Oh, crying. A Friday night for 95, a special price, your life and time design. Is Immagina te stesso in una barca su un fiume, con alberi di mandarino e cieli di marmellata. Qualcuno ti chiama, tu rispondi lentamente, una ragazza con gli occhi caleidoscopici. Ma il pezzo che vi vado a passare? Two Foot Flame, per voi. Elevator, Madness. Negli Stati Uniti brucia sempre la febbre dell'acido, con l'instancabile opera di ristampa di etichette come la Sunday Z o la Rhino, che ha espanso l'antologia Nuggets sulla distanza dei 4 CD e si è inventato un seguito per l'impero britannico e oltre, Nuggets 2. In Gran Bretagna, Nick Salomon, in arte Baby's Front, offre copie perfette di modernatariato psichedelico, non solo come musicista, ma anche come discografico. Con la sua Voronzov Records gli fa eco Richard Allen, editore della rivista Freakbeat, che con l'etichetta Delirium propone una origine fusione tra Interstellar Overdrive del 66-67 e i magici viaggi nella terra del progressive. I Porcupine Tree sono il suo capolavoro. Buonanotte da Mr. Cogot, un altro genere number one È finita, finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Buonanotte, Psicadello Ghost Friends. Mi dissocio dalla lettura di Mr. Cocot, ma mi associo per i saluti a tutti quanti. La prima puntata è andata, un caldo saluto ai tre nostri collaboratori più che colleghi, Mr. Campo, Mr. Gasperin e Mr. Renton. Un saluto a Fuso Radio, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori e se becchiamo alla prossima. Direi più musica svansvera. Svansvera. Ci avevano già fermati, ragazzi. L'estate inizia già qua, ci stanno condannando a rogo qui. Chissà che vi sarete persi nel frattempo delle varie non so minchiate. Mister Campo minchiate il suo déjà vu. Minchiate. E se ci stanno ascoltandolo. Minchiate. Minchiate. Tu. Tu da solo rovinasti. Assolutamente. No, noi non ci troviamo. È il professore. Per favore, mister Brontolo. Questo déjà vu ha rovinato. Déjà vu. No, il déjà vu. No, ma è tipico strumento, E lo so, déjà vu. Tipico, io ci dormo insieme la notte col déjà vu. No, il déjà vu fa sempre parte della famiglia dei digeridù. Più piccolo. E si suona con una mano. E la bocca? Anche. Con una mano sola, no, in testa. No, la bocca, il déjà vu. Allora, io penso che, insomma, possiamo mandare anche un bel pezzettino. Assolutamente. Sempre Creative Commons, perché Nart Radio Roma lavora solo sulle Creative Commons. Solo quello. Adesso io vi mando un pezzo e poi vi raccontiamo tante cose che dovranno succedere a Nart Radio. Roma. Ramo.